ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. È un obbligo di un decreto ministeriale che è inferiore a una legge che impone di andare a viso scoperto. Mentre l'economia in Svezia è andata avanti, non siamo più in Europa. Ci sarà un giudizio universale per farvi pagare la fine del lavoro usando la morte che non c'è. Le curve non parlano di contagi, ma parlano di morti arrivati a zero. E continuate a usare i morti per fare retorica. Andrete all'inferno. Il giudizio universale ci sarà per condannarvi per quello che avete fatto. All'inferno andrete. All'inferno. All'inferno. All'inferno. All'inferno. All'inferno. All'inferno. Anche lei. Ho voluto aprire con due interventi che hanno dell'apocalittico. L'uno è del comico Enrico Montesano, che ieri davanti a Montecitorio si è prodotto in uno sketch comico. L'Umarell, trascinato via dalla moglie, che con fare litigioso se la prende con i poliziotti che dicono metti la mascherina, e urlava che lui la mascherina non la vuol mettere perché c'è una legge che impone di andare a viso scoperto, quindi ha fatto la sua affermazione di appartenenza, come un gerarca che salta nel cerchio di fuoco per mostrare di appartenere alla virile stirpe italica. Chi magari non ha più l'illuminazione del successo e la presenza in televisiva recupera terreno mostrandosi zelante nell'essere paladino di coloro che pensano che la libertà individuale si giochi sul campo del mettere o non mettere la mascherina. E poi Sgarbi, che ormai ripete il suo sketch continuamente, che minaccia le fiamme dell'inferno come un predicatore medievale: andrete tutti all'inferno, state simulando un'epidemia che non c'è. E anche lui fa parte della libera interpretazione del concetto di stato assolutista che imporrebbe scelte ai cittadini, come quelle di mettersi una mascherina in faccia e non rompete i coglioni, mettetevi questa mascherina. Qual è il problema se questo in qualche maniera può aiutare a evitare quello che sta accadendo? Guardate che non voglio passare dalla parte dei catastrofisti, di quelli che tirano la volata al governo dicendo che esiste l'epidemia, così rimangono incollate le loro poltrone. A me questo tipo di narrazione fa veramente ormai un certo senso. Vorrei che si giocasse con tutti gli strumenti possibili la battaglia della giusta contrapposizione politica, non su questo campo. Io ho visto un'agenzia fatta da un sindacato di medici ospedalieri, la NAO, che dice: se andiamo avanti con questo trend di tutti questi contagi al giorno, finirà che in qualche mese, nel giro di pochi mesi, due o tre mesi, riavremo nuovamente l'intasamento nelle terapie intensive. E questo nessuno si augura un risultato del genere. E continuiamo ancora a barcamenarci sul fatto che esistano delle scelte politiche sbagliate, ci saranno senz'altro, degli errori saranno stati fatti senz'altro, però non si può eludere il fatto che comunque un pericolo ci sia. Quindi oggi voglio fare un'operazione che secondo me ha un suo senso. Ricordate, tra tutte le più facili retoriche possibili attorno a tutto il racconto, il discorso del Covid, c'era anche la giusta, sacrosanta, reale, ma forse non profondamente corrispondente poi a atteggiamenti concreti, glorificazione di alcune categorie di lavoratori, tra cui i medici e gli infermieri. abbiamo visto foto di persone che lavoravano in condizioni disperate, di persone che rischiavano la loro vita centinaia di volte più di quanto in media la rischiava ognuno di noi, di persone senza mezzi, senza le forniture necessarie, in situazioni disperate, comunque facevano il loro dovere. E abbiamo su questo, naturalmente tutti ci siamo spezzati il cuore nel dire quanto li avevamo nel cuore. Beh, adesso che c'è stata di mezzo un'estate in cui tutti abbiamo pensato e immaginato che tutto fosse finito, passato, come si dice, finita la festa, gabbato il santo. Nessuno si ripone più in un problema, in una dialettica che basa soltanto su una percezione individuale di quello che è il pericolo, con una disattenzione totale a quelli che sono i numeri concreti e reali che abbiamo cercato di riportare. Ci siamo improvvisamente dimenticati dei medici, degli infermieri, delle persone che lavoravano e lavorano tuttora nelle corse degli ospedali. Quindi voglio sentire oggi dalla viva voce di chi non ha mai lasciato il suo posto di lavoro e la sua responsabilità, quella che è la percezione e la situazione reale, con tutti i lati oscuri, con tutti i problemi, con tutte le difficoltà. Dottor Alessandro Vergallo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il dottor Vergallo è naturalmente una persona che è informata di quello che sta accadendo, presidente nazionale Associazione AROL EMAC, Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica. Quindi penso la categoria che più è stata a contatto diretto e più ha una percezione di quello che realmente sia lo stato delle cose. Qual è la sua reazione nel sentire che esiste una possibile e lecita, senz'altro, dialettica sul fatto che sia tutta una bufala, una contraffazione, che si tende a esagerare quello che è lo stato di attenzione attuale perché c'è dietro un grande disegno complottista, politico e via dicendo? Cosa ne pensate voi che state nelle corsie, state nei reparti, vi preparate ad affrontare quello che sta accadendo? La mia è la voce di colleghi che insieme agli assistenti rianimatori, che insieme ai colleghi di pronto soccorso sono stati quelli più in trincea di tutti a affrontare un nemico che ci ha colpito del tutto alla sprovvista tra fine febbraio e marzo e poi continuato via via anche ad aprile fino a discendere grazie alle misure di contenimento. Quindi vedere certe scene ci disgusta perché oltretutto mette in crisi anche sotto l'aspetto del carico psicologico che i colleghi hanno subito nell'affrontare questo nemico sconosciuto e soprattutto nel curare pazienti che in qualche maniera sono stati colpiti anche loro drammaticamente, tragicamente, con tutte le morti che ci sono state. Quindi siamo disgustati sia dagli atteggiamenti negazionisti sia da quelli che sminuiscono il valore delle misure di prevenzione. Poi giustamente ho sentito prima, se il concetto di libertà è legato viene messo in crisi adottare misure di prevenzione, veramente allora il concetto di libertà che nella testa di questa gente è a un livello molto basso. Lei vorrei fare un discorso molto concreto e spassionato. È convinto che il livello attuale di attenzione di cui abbiamo dato anche noi numeri, segnali di allarme, via via una crescente, diciamo, stato di allerta che non ci fa certo stare molto allegri, si è percepito da tutta la totalità dei suoi colleghi? Le cito un esempio, che è un esempio assolutamente negativo, che però va tenuto in considerazione: il ginecologo che a Alessandria è andato in reparto con la febbre, ha contagiato anche due infermiere, adesso è indagato per epidemia colposa. Si rendono conto tutti i medici? Cominciamo subito con una analisi della categoria e poi ci allarghiamo rispetto alla percezione generale, che questo è un momento in cui bisogna fare quadrato, fare fronte e non ci si può permettere nessuna leggerezza. Ma al di là degli aspetti della consapevolezza propria che può essere accaduta, non voglio entrare nello specifico, ma parlando in termini generici, se qualcuno ha sottovalutato nelle fasi iniziali, questo è già comprensibile perché è chiaro che si trattava di una cosa del tutto sconosciuta, quantomeno in Europa, e anche le notizie che ricevevamo dal mondo erano quantomeno oscure. In questa fase teniamo monitorate anche tra le nostre fila coloro i quali medici in particolare dimostrano o di sottovalutare scientemente oppure di avere atteggiamenti di superficialità. Addirittura qualcuno lo vediamo anche, qualche medico lo vediamo anche partecipare a manifestazioni più o meno negazioniste, altri li vediamo invece ascrivere a presupposti, errori di cura, errori di terapia, gli esiti purtroppo infausti che ci sono stati. Queste cose ci fanno davvero arrabbiare, anche perché creano poi la base per dare adito a tutte quelle iniziative di cui che per adesso sono sommerse, ma che ogni tanto emergono e emergeranno sempre di più, di contestazione anche in sede medico-legale di questi aspetti. Molti colleghi sono chiamati in queste ore a rispondere a domande su presunti errori terapeutici che di fatto non ci sono stati. Queste cose capitano sulla testa di colleghi che si sono spesi, hanno speso il loro tempo, la loro serenità, la loro salute anche, pagando anche qualche volta con la vita per curare i pazienti colpiti da Covid, e quindi diciamo, lo troviamo un atteggiamento estremamente ingiusto, pur consapevoli. Ecco, questo come si potrebbe riflettere in maniera negativa poi nello stato della salute generale di tutti, il fatto che ci sono, è chiaro, non fermiamoci, organizzazioni, aziende, società, modi che stanno pubblicizzando il fatto, se avete avuto problemi o altro, che è lecito naturalmente farlo, dateci a noi i dati e faremo una causa a chi vi ha messo in difficoltà. Ecco, esiste questa sorta di paura che oggi ci possa essere un'attribuzione di responsabilità anche da un punto di vista legale che impedisca di fare serenamente il proprio lavoro ai medici che si occupano di Covid? Beh, questo timore c'è e oltretutto ci lascia perplessi, ci lascia basiti il fatto che ci fossero state iniziative parlamentari di disposizioni normative che andassero a sterilizzare una persecuzione, perché di questo si tratta, perché uno non è che va a fare il medico per ammazzare la gente, va a fare il medico per cercare di curarla, quindi è chiaro che essere sottoposti a un procedimento, comunque un avvio di contenzioso da parte di chi si ritiene leso, a maggior ragione se è negazionista, ci mette la condizione di essere un po' perplessi sul fatto che iniziative parlamentari tese a sterilizzare queste cause temerarie di fatto poi sono naufragati nel nulla. C'erano dei disegni emendativi di legge che poi sono scomparsi dal disegno generale dei provvedimenti normativi emanati da questo governo. Quindi ci auguriamo che vengano riprese alla svelta, anche perché rischiano poi di minare quel rapporto fiduciario che non è solo del paziente verso il medico, ma anche una componente reciproca e che dal nostro punto di vista serve anche a affrontare virtuosamente le necessità di salute dei cittadini. Allora io invito il pubblico a chiamarci all'800 24 0024. Questa mattina naturalmente vogliamo il punto di vista degli operatori, di coloro che stanno dall'altra parte rispetto al paziente. Avete percezione che ci sia uno stato di allerta, che le persone siano pronte, vi state preparando, siete medici, siete infermieri, siete personale ospedaliero. 800 24 0024. Dottor Vergallo, voi in che maniera vi state preparando per un eventuale acutizzarsi dell'emergenza? Tutti facciamo gli scongiuri, speriamo, esorcizziamo, non si parli assolutamente, non è una situazione paragonabile, ma comunque sia, se aumentasse e veramente il trend si mantenesse costante, quale problema individuerebbe subito da un punto di vista sanitario, proprio dal suo osservatorio? Allora, in questo momento tecnicamente, sotto il profilo diciamo delle competenze professionali, i colleghi si sentono sicuramente più pronti di quanto non fosse a fine febbraio. Ecco, almeno si sa di cosa, con cosa si abbia a che fare rispetto a febbraio. Esatto, questo sì. Esatto. E ci sono stati comunque dei progressi sia sul piano delle conoscenze che consentono una diagnosi più precoce, quindi un più precoce accesso alle cure dei pazienti colpiti da Covid, sia sul piano terapeutico, anche se non abbiamo armi dirette contro il virus, sappiamo molto più di prima che terapia mettere in atto per impedire che il meccanismo patogenetico finisca poi col provocare esiti gravi o addirittura letali. Sotto questo profilo ci sentiamo sicuramente estremamente più pronti. Siamo sicuramente, i colleghi sono sicuramente sotto il profilo del carico psicologico più stanchi, anche perché molti hanno dovuto sacrificare anche la vita familiare, pensiamo ai colleghi che sono dovuti andare negli alberghi per non rischiare di creare dei focolai in famiglia provenendo dalle parti Covid. Ma esiste ancora questo fenomeno di medici che non stanno in famiglia, o diciamo via via si è andato a saturare, ecco, sono ritornati in famiglia rispetto al momento più acuto dell'emergenza? nel momento più acuto è stato importante, e devo dire che abbiamo ricevuto anche una grossa mano da chi ci ha messo a disposizione le strutture per poter evitare di creare contagi in famiglia. Chiaro che durante l'estate questo fenomeno è andato scomparendo, adesso in qualche caso sta riemergendo in colleghi che non hanno la possibilità di separarsi in casa dai propri cari, quindi anche questa seconda ondata di carico psicologico che è conseguente all'ondata pandemica è chiaro che investe colleghi psicologicamente già piuttosto provati, ecco perché è necessaria una attenzione della popolazione che quantomeno mitighi il rischio. Poi è chiaro che se il rischio zero non esiste, anche perché l'economia in qualche maniera deve ripartire, ma deve ripartire con le precauzioni necessarie, questo è indispensabile. Ecco, cosa è stato fatto di nuovo dal punto di vista dell'organizzazione, della logistica, della prevenzione in situazioni di crisi? Perché se fosse la più fosca delle previsioni concreta, da qui a qualche mese riavremmo il problema dei reparti di terapia intensiva. In quel caso, come vi siete preparati rispetto all'impreparazione per la sorpresa che c'è stata a febbraio? Beh, è stato necessario nelle fasi più tragiche, più drammatiche della pandemia, soprattutto nelle regioni del nord, Lombardia in particolare, dove vivo io personalmente, dove c'è stata una forte collaborazione con le amministrazioni ospedaliere in grado di creare percorsi separati per i pazienti Covid in maniera da preservare i pazienti non Covid e gli operatori stessi. Quindi quella parte organizzativa che è stata messa in atto in queste regioni è già in qualche modo rodata, sebbene sia stata rodata in un lasso di tempo talmente minimo da essere considerato emergenziale. Nelle regioni che non erano state colpite, che guarda caso sono quelle che attualmente hanno i numeri di crescita maggiori e che altro. Io sto vedendo il Lazio, consideravamo fortunati, noi che abitavamo a Roma, vedo che il Lazio adesso è nella percentuale media di contagi la regione che è più in testa, quindi rispetto ai tamponi. Quindi, come vede, si è rovesciata la situazione. Si è rovesciata la situazione, quindi sta colpendo regioni che speriamo che nel frattempo si siano altrettanto organizzate. Su diverse abbiamo segnali confortanti, su altre ci sembra che stiano andando un po' in difficoltà già con numeri che relativamente a quelli di febbraio-marzo sono 8-9 volte inferiori, quindi ci auguriamo che da una parte non crescano ulteriormente e che quindi questa curva che parrebbe assumere un aspetto nuovamente esponenziale per quanto un fattore di crescita minore rispetto a marzo non cresca a dismisura, questo è la speranza. Poi è chiaro che se dovesse accadere sicuramente anche in queste regioni del sud sostanzialmente sono stati imitati i modelli organizzativi lombardi piuttosto che veneti, piuttosto che emiliani, speriamo che funzionino. Allora, noi ci fermiamo un istante, intanto saluto il dottor Alessandro Vergallo e ci sentiamo fra pochi minuti. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Melog. Oggi parliamo di medici e infermieri e abbiamo subito al telefono un medico. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno signor Nicoletti. L'ascolto, ho sentito il suo collega che è un rappresentante anche di un vostro sindacato, vorrei sapere la sua esperienza personale. È giusto e corretto in questo momento chiedere anche il parere dei medici rispetto a quello che sta accadendo, al di là dei numeri, dei personaggi che vanno in televisione, dei super esperti? Questi sono quelli che state affilando le armi più degli altri, perché sapete benissimo che se il problema ritorna un po' più vivace di quello che che è nella percezione generale, poi in prima linea sarete voi. Sì, allora la mia breve esperienza è questa. Io sono un giovane medico di 29 anni che sta per terminare il corso di formazione in medicina generale, quindi un futuro medico del territorio, medico di famiglia. E il 16 marzo, ancora quando c'erano perplessità sulla gestione del virus, nonostante già fossimo da 2 settimane in ballo dopo i primi contagi, ho contratto il virus. appunto nella mia attività lavorativa sul territorio. Ho fatto circa 20 giorni di quarantena, una volta guarito ho poi cominciato a lavorare in quelle che vengono chiamate USCA, l'acronimo che sta per Unità Speciali di Continuità Assistenziale, che sono unità dedicate alla visita e al trattamento dei pazienti positivi a domicilio. Quindi lei, dottore, dopo aver avuto lei il Covid, come si è ristabilito, si è rimesso a lavorare in prima linea nei posti in cui era più forte, diciamo, la necessità di avere medici? Certo, questa era la necessità e credo che tutta la classe medica abbia dato il proprio contributo. Pronto? Continui, racconti. Sì. Vuoi sapere adesso, la domanda che faccio a lei è quella che ho fatto anche al suo collega. In questo esatto momento in cui la percezione generale, noi abbiamo difficoltà nel comunicare a un'opinione generale degli ascoltatori, dei lettori, delle persone che comunque si aspettano da noi una mediazione, una realtà oggettiva. Perché? Perché ormai la valutazione di quello che sta accadendo è fortemente inquinata dal pregiudizio, dalla connotazione ideologica, dalla speculazione politica. Lei che è un medico, lei ha avuto il Covid, ha proprio passato l'iter più doloroso, allo stesso tempo più intenso di questa esperienza. In questo momento a cosa si sta preparando? La sua esperienza cosa le fa pensare? Allora, la mia esperienza mi dice questo: io sono stato molto fortunato perché nel giro di 20 giorni mi sono negativizzato. Ho però assistito durante la mia attività lavorativa a situazioni devastanti a livello familiare, perché il Covid non è semplicemente e solamente un problema di tipo medico, è anche un problema di tipo psicologico. Ha creato delle situazioni di persone che si sentivano colpevoli di aver contagiato i propri familiari, situazioni di persone che sono rimaste per settimane a casa in attesa della doppia negativizzazione al tampone di controllo, persone che si sono portati dentro la morte dei familiari contagiati e tutta una serie di situazioni psicologicamente devastanti. Ma perché tutta questa realtà è diventata sommersa a questo punto e si può impunemente permettere di sottintendere che possa essere stata tutta una costruzione o comunque ci sia una supervalutazione di quello che è all'attuale e di quello che è stato? Allora, credo secondo che lei, dove sbagliamo motivi... noi, che siamo noi che poi comunichiamo queste cose? Sì, allora credo che sia per dei motivi storicamente noti e anche comprensibili da un certo punto di vista, che sono quelli che rientrano in ciò che viene definito il paradosso della prevenzione, cioè quando la prevenzione funziona le persone tendono a diffidare di ulteriore prevenzione, lo stesso meccanismo psicologico è stato visto anche con i vaccini. E altri motivi che io cioè ci si può permettere di fare Novax perché milioni di persone non muoiono più per certe malattie, quindi uno può anche permettersi il lusso di dire che è una cazzata, ecco, questa è la sintesi. E perché milioni di concittadini si vaccinano anche, quindi grazie al contributo degli altri qualcuno può permettersi di prendersi più libertà del necessario. Quindi anche diciamo le manifestazioni plateali, teatrali sulle mascherine, sulla sottostima della necessità, tutto sommato ci danno la sicurezza, che vuol dire che ci sono molti che lavorano bene, quindi ci può essere anche la libertà di espressione di queste persone. La ringrazio Michele, un giovane dottore ci ha dato una lettura che devo dire originale, finora nessuno me l'aveva detto e mi fa capire molte cose. Giulia, infermiera, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Giulia e lavoro all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Quando dico questa cosa mi commuovo sempre perché ho vissuto in prima linea, insomma, quello che è successo a Bergamo, che tutti sanno, scusatemi. Lei come giudica chi dice che alla fine dentro quelle bare c'erano degli stranieri morti in acqua, abbiamo visto le etichette, era tutta una finzione per spaventarci? Può aggiungere qualcosa per far capire che in realtà è un po' non solo rischioso ma anche criminale propagandare questo tipo di lettura di quella realtà? Allora, io sono molto ferita da questa cosa e anche da quelli che gridano in piazza che non serve la mascherina e che appunto tutto è una finzione. Sono molto ferita perché l'ho proprio vissuto sulla mia pelle. Però vorrei dire un'altra cosa, nel senso che vorrei superare questa cosa, nel senso che io vorrei vedere questa emergenza, il Covid, più come un complotto, ma lo vorrei vedere come un'emergenza sanitaria. E questa emergenza sanitaria, secondo me, è stato un paradosso, ma molte persone sono migliorate, nel senso che io per prima, durante l'emergenza, andavo al lavoro veramente motivata, perché veramente capivo che cosa l'importanza del mio lavoro, no? E per quello che poi appunto tanti hanno capito anche l'importanza di tutto il personale sanitario in questa emergenza. Però vorrei andare appunto oltre, nel senso che io guarderei l'emergenza sanitaria, il Covid come emergenza sanitaria, è quello che ha aiutato a migliorare. Per esempio, con l'emergenza Covid a Bergamo tra pochi giorni partirà il progetto dell'infermiere di famiglia, che andrà proprio a colmare quei buchi che si sono visti, c'erano durante l'emergenza Covid. Tutte quelle persone quindi che sono rimaste a casa, ad alcune è andata bene, ad altri comunque sono morte. Questo ha dato la spinta per creare dei progetti. Beh, anche a livello, Giulia, io non è che voglio fare sempre quello che parla soltanto delle possibili sfighe e non è ottimista, però devo dire, due telefonate che ho avuto sono due persone che si sono occupate attivamente dell'emergenza più cruda e mi danno due letture che alla fine non sono negative. Giulia mi dice comunque sia nel posto clou dove si è sviluppato il problema all'inizio e si è sviluppato in maniera più cruenta, qualcosa sta cambiando, ci sta preparando, perlomeno è cambiato un sistema o si è specializzato un sistema. E il giovane medico mi diceva: sì, ma se lo possono permettere, possiamo tutti permetterci anche di lasciare libera un dissenso, anche se così futilmente privo di fondamento, perché molti stanno lavorando bene. Tra un istante, dopo la pausa, avremo un rappresentante della categoria degli infermieri, il segretario di un sindacato che ha oltre 40.000 iscritti. Continueremo a parlare di medici e infermieri tra poco. Melog 800240024, parliamo oggi di infermieri e di medici. Come annunciato, abbiamo con noi Andrea Bottega, segretario nazionale NURSIN, sindacato di base degli infermieri, come ho già detto, 40.000 iscritti. Bottega, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Ma che accade? Domani andate a protestare a Montecitorio, prevista una manifestazione alle 11 in piazza Montecitorio di tutti gli infermieri. Come mai? Allora, è prevista una manifestazione alle 11 in piazza Montecitorio, non è una manifestazione di protesta, è semplicemente un ricordare al governo l'impegno preso dal presidente Conte proprio nella sede della Camera del Parlamento di non dimenticarci di noi, cioè degli infermieri. Ecco, perché li ha dimenticato? Perché è il momento di ricordare quella promessa, in quanto ci sono in discussione, si inizierà la discussione della legge di bilancio e della gestione del recovery fund, quindi dei soldi che arrivano dall'Europa. Ecco, noi vogliamo semplicemente ricordare che dobbiamo partire per una revisione del sistema sanitario nazionale. Dobbiamo partire da quella che è veramente la trincea, se vogliamo reggere l'urto che purtroppo sta di nuovo entrando in maniera preponderante. Cioè, traduco, non vorremmo che a forza di considerarci angeli tutti pensino che noi viviamo d'aria, la sintesi. Esatto, non vogliamo cavarci, lei prima l'ha detto nell'introduzione, siamo stati chiamati eroi del periodo sì. Più buio. Sì, sì, chiaro, abbiamo portato sugli altari anche foto, esatto, filmati, siete diventati dei protagonisti e vi siete guadagnati la riconoscenza emotiva, almeno in superficie, del mondo intero. Però adesso che è il momento di stringere i ranghi e prepararsi comunque ad affrontare un possibile nuovo attacco, cosa è accaduto a voi? Questo riconoscimento della categoria dell'eroismo si è concretizzato in degli maggiori strumenti per lavorare meglio? No, ecco, questa è l'occasione. Questo è il punto, no. quella, quella dell'arrivo dei fondi europei per portare anche gli infermieri al livello degli altri paesi europei. Noi abbiamo lo stipendio più basso tra i paesi europei, ce lo dice diverse indagini, anche del nostro ordine professionale. Abbiamo un numero di infermieri per 1000 abitanti che è di 5,6 rispetto ad altri paesi europei di 9 ogni 1000 abitanti, per cui c'è una forte necessità di infermieri in Italia, e per avere infermieri bisogna valorizzare la professione, perché dobbiamo incentivare i giovani a fare questo lavoro e quindi in qualche modo renderlo appetibile, ed evitare che chi ha già intrapreso questa professione se ne vada all'estero, perché lì trova condizioni di lavoro e stipendi migliori. Le faccio parlare con un suo collega, Antonio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie a tutti per avermi dato possibilità di intervenire. Un infermiere lei? Io sono un infermiere, lavoro da 10 anni in pronto soccorso in uno dei maggiori ospedali di Milano colpiti e adibiti al Covid. Oltre la medaglia di santo eroe, cosa si aspetterebbe adesso, visto che ci ricominciamo a preparare a stare come minimo più all'allerta rispetto a un mese fa, ecco, diciamo così, se no ci dicono che siamo. Diciamo che la medaglia ce l'hanno data pro tempore, ce l'hanno data per qualche mesetto, se la sono subito ripresi nel momento in cui l'allerta è calata, perché quando c'è stato bisogno, che c'era il lockdown, che erano tutti terrorizzati, noi eravamo gli eroi. Appena le maglie si sono allargate, sia l'opinione pubblica che quella istituzionale, tra virgolette, come ricordava il dottor Bottega del Nursing, è un attimino cambiata. Infatti, oltre a non aver avuto noi nessun riconoscimento dal punto di vista, diciamo, come professionisti sostanzialmente, anche per l'opinione pubblica siamo ritornati ad essere quelli che sono in pausa, quelli lì che si nascondono, che si imboscono, e 2 settimane diciamo dopo, tutto tornato nella percezione densa di pregiudizi, ma anche oggettivamente voi chiedevate anche degli strumenti più efficienti per lavorare, mi ricordo gli infermieri con i sacchetti della spazzatura al posto dei camici. Tutto questo mi sembra che non sia cambiato. Sentiamo Gabriella, altra ascoltatrice, però mi sembra un medico questa volta. Medico, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. Sono contenta di partecipare alla sua trasmissione e i colleghi che mi hanno preceduto hanno delineato esattamente il quadro sia gestionale degli ospedali che psicologico del personale. Quando io sono un medico, ormai in età avanzata, perché ho 45 anni, così giovane. Beh, avanzata, non sono vorrei più averla tutti i giorni con una persona di 45 anni accanto, ma avanzata di che? Grazie, ma sono stata da entrambi i lati della barriera. Io sono stata uno dei primi medici che ha adottato le protezioni, perché nei giorni che precedevano il carnevale una mia studentessa che si era laureata poi il 24 di febbraio così aveva contratto una polmonite. Eravamo ancora in periodo non Covid, comunque non in Italia con i numeri che poi abbiamo visto. Per cui nella paura di essere un serbatoio di contagio di una qualunque infezione polmonare, io avevo subito indossato la mascherina e non le nego che fui anche oggetto di sberleffo da parte dei colleghi. La prendevano in giro, esagerata, ma sì, che fifona. Sì, ma che lei ha contratto allora il Covid, dicevo, poi, dottoressa? Guarda, ho avuto contatto con questa studentessa, sai, devo venire, poi tra l'altro noi siamo in una situazione, io vengo da un ospedale privato dove comunque sì, l'organico però, dottoressa, visto è che ridotto all'otto. Ho necessità di stringere, stiamo per chiudere. Lei poi ha contratto il Covid? Ho contratto il Covid sul lavoro, ho attraversato 40 giorni di quarantena, l'unica mia fortuna è che consapevole fin da subito di quello che sarebbe successo, io mi sono contumaciata in casa, il che vuol dire che non ho più baciato le mie figlie, ho dormito separata da mio marito, ho assistito agli incubi notturni di le allora, solo mie in una figlia. Battuta, ho capito il suo iter. Mi dice come si sta preparando ad oggi, a domani, a dopodomani, a tra un mese, in una battuta che stiamo chiudendo. Io mi sto preparando solo psicologicamente, perché gli ospedali sono preparati, nel senso che i vecchi reparti dedicati al Covid sono rimasti vuoti in attesa di ricevere i pazienti dagli ospedali pubblici quando le rianimazioni saranno sature. Ma mi preparo psicologicamente. Speriamo che questo non debba accadere, però è importante sapere che i medici stanno in allerta. La ringrazio, dottoressa, ringrazio tutti. Il tempo mi impone di chiudere. Alla prossima. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.